Dato sei. Allora, ciao Roberto, Roberto Mura, tu sei qui. Fox non esce in radio da qua, Fabrizio. No, appena ho finito l'ultima battuta dall'obiettivo di Gabriele, salutiamo tutti e arrivano. 47. Ehi! Come ricatto sono? Siamo rientrati adesso, Gio Maria, eravamo in campagna. Ah? Siamo rientrati adesso, eravamo in campagna. Oh! Bene si sa, va? Mattina, vabbè, verso... Ma poi la sera adesso c'è freschetto. Infatti mi sono fatto un giro, sono andato giù a tutti dove ha piantato le fave, me ne sono mangiato un po'. Hai fatto bene allora. Arietta c'è qualche. Si sente che c'è l'arietta. No, io non sono uscito a nessun posto, sono sempre in casa. Ci ho fatto il giro stamattina solo lì, dietro di me. E basta. Adesso sono seduto e... con la sdraio lì, facciata, dietro le finestre, si sa bene, c'è il sole, si sa bene, vai. E io dentro casa, allora, le tapparelle sollevate, e il sole c'è tutto il giorno, ci sta, capito? Questa è la parte di casa, anche il caso, bene, si sa bene. Infatti, si sa bene, sì. Ma là dove dormo pesare. Mi sono fatto un pisolino e cosa per fare? Vai, adesso si va più tardi tu. E poi mi lascerò tra un quarto d'ora. Ok, ciao. Ciao, do. Ok, Savone. Avanti, chi è? Eh? Non mi ha detto. Cosa ha detto? Ma te ne hai detto? Avanti, chi è? Chi è? Cato, anche Giuseppe mi sente. E chi è? Giuseppe mi senti? Prova antenna, prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. Chi sei, Franco? No. E allora chi sei? Luca il Bello. Luca, ciao Luca, vabbè, tutto bene? Sì, dove sei? A Domo? Beh, dopo che vuoi che sia. Tempi duri per uscire sono tempi duri, bisogna rimanere a casa. Sono si spende così. Hai capito? Stai un po' fischiando, come mai? Benci! Buonasera, Senti, andiamo in già via. Vabbè, Luca. Benci! Eia! Si viene andare in già via a me? Dimmi, cosa c'è? Sento, mi senti come mia mia mente Luca? No, a te ti sento molto più forte. Di Luca! Perché sto parlando a voce bassa? Diglielo. Bisogna parlare a voce bassa, sennò qua svegliamo i cani. Ah, lui c'è sempre che parla così, io in camera Luca, capito? Ho capito. Lui. Luca c'è il megafono. Di peltro. Megafono di peltro. Ah, tu faccia già c'hai tu. No. E qua l'abbiamo accesa, c'era freddo. Sì, la sera, ma la sorta scende il freddo. Asparagi, stai andando? Novità, niente lui. Chi sono? L'ho fatto sentire. Ma che? Ah, lui, si è fatto sentire quello là. No. Capito, andava. Luca lì. E Giuseppe. Ma aspetta. Non ci stai andando a sparare qui, Lu. No, tutti Luca ce li ha fatti. Anche. Un po' a me nuda, no. E che sta passando l'isolante qui. Ma dove? Io non lo so. Dimmi la zona vado. Dappertutto sono. Anche a Ittili. Ah, ho capito. Ma stava non c'è nella zona di Osilo, ce n'è? La zona di Osilo, so che c'è ancora freddo e niente. Non ho capito, vabbè. Non sai quanto, a quanto le stanno vendendo il mazzetti, no? Non danneggiare. 5 euro. Ho capito, vabbè. Va bene, dai. Vi lascio alle vostre chiacchiere, dai. E tu come vai a casa? Sono a casa. E come vai? Sono senza macchina, Luca. Facevi la macchina, che fine ha fatto? Io una l'ho demolita, hai capito? La cara l'ho demolita e adesso c'è quella che usa mia madre, ma sempre in giro. Dobbiamo limitarci, hai capito, Luca, a consumare benzina. Certo. Un casino. La benzina costa. Costa sì. È arrivato a certo punto. Cazzo, 1,579, 1,614, cazzo, ma coloro sanno a che cazzo mettere la benzina. Più della ragosta costa. Se ti fidi, gira e gira, cazzo costa più dei gamberoni, mi. Fai come Luca da furarla. Vero Luca, a rubare la benzina vai tu. No, io ho fatto idrogeno. A idrogeno l'hai fatta, a elettrica, dai. La ganna. Bisogna inventarci la macchina elettrica adesso. A idrogeno, faccio il pieno a casa, usiamo una fonte benzina, ormai cos'è? Sennò bisogna inventarci la macchina elettrica, Luca. Almeno risparmiamo benzina, la riempiamo di elettricità e tutto quanto. E tu vazzi pieno a un circolo. Devo fare un piano di garre. Che vuoi? Il favore. Oi, per carità. Da cannesce di un pompone, buruetto. Ecco. Luca. E allora? Ma a me sta dicendo. No, Luca, un pompone e scendi. Sei nell'arco buruetto. Ah, ho capito, da quando stavo frequentando Pomponio è super. Devo fare da testimone. Da testimone? Cos'è serve? No, devo venire arrestato. Bella lui che a me. Oi. Per furto di chi ne usa. Il furto di chi ne usa. Dobbiamo fare per regalo di cosa? Dobbiamo regalare una tanca di ricchi nusa, di quei puntoni, ah lui? Oi, per carità. Ci sentiamo più tardi, dai, ciao. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ok, Sassu. E lui? E chi c'è? Nessuno. Flippera. E cosa sta facendo? Flippera. Sta giocando la legneria. A ballo ci sta giocando. E la legneria. C'è un film di guerra, le ha cosa finì. Luca, dillo, sta giocando la legneria, dillo. Flipper, cosa stai facendo? Flipper. Beh, Luca Flipper, cosa stai facendo? Dormita, Dormito, poverino, chissà cosa si sta tutti in colpa a mezz'ora. Beh, Luca, cosa hai fatto oggi di bello? Niente. Marico! Luca morto sì. Dormi. E io pensavo che fossi sceso nella campagna a tappare. Allora c'era Luca, a mezzo mese è girato 30 ruretto. Chissà cosa fai, chi dà sul bel Luca Flippero. A parte in aria chi ha mangiato troppo. E allora? Isso ha mangiato bene oggi, infatti se poi c'è passa l'aria, chissà riesce a digerire bene. Il asraglio è curibile, nata la ringhiera, un derrazzo. Se si approfondi la panza. Dillo! Cacula vuol dire avanti con gatto di seccare le ridi, gatto. E beh, lo saluti a zio Gio Maria. Gio Maria, poco fa ci siamo sentiti, grazie. Ah, c'era poco fa, non mi hai detto niente. Allora era imboscato, era. Io mi ho mangiato una fiesta adesso c'ho il caffè però sta bruciando. Me lo giro piano piano, così la fredda un po'. La fiesta stai mangiando, capito? Allora cammina, se no ti si aumenta adesso, eh. E allora, la fiesta bella, bella piena di cioccolata, bella succiosa, buona, eh. Ero un annetto senza mangiarmi una fiesta. Hai te, su, la fiesta si è mangiata. Io gli ho provato la cucinia. Sì, ma una volta all'anno io me la posso mangiare una fiesta. Tanto, io mari, tanto vado di si campa una volta, sempre così. Perché tra, non sappiamo come è cazzo. Però lasciamolo fare come vuole fare. Ah, ce ne accorgi un altro momento. Poi il gusto che c'ha ti gira a mangiarti un'altra, la tentazione c'è. Oh, va bene, mangia, mangia. Ma è solo che la mangi? Non lo so, oggi ho pranzato tortellini, bonaretti, un bel dubbiato, cucuzzo, pollo arrosto con patate, fettine impanate, salsiccia, cacio, pepeta, e insalata e pomodori e finocchietti. Ma dove te la metti tutta questa roba? Basta, sono con Basalento, mi ha dato, Allora c'è la sera, no? Viene un altro che mangia un bebè puro, Prima sei un terzo, qua sei quinto. Capito? Che vai a pantinare il sdraiato. Ma lì si fa dell'esagerato, lì sul piatto non è gulloso. Porti direttamente la barretta sopra la mancia. Ma se muori, l'udvagliolo girato in coda e piglia la truta, mica piglia i cucciari, vero Luca? Ma chi si mangia pensa a me, e sono tu mangia, mamma mia. Ma lì si ha mangiato un po' di casbetto in cantieri. Cosa vissi a chi? C'è poco. Cazzo, se non vuole mangiare allora, già la fine bustigia. A chi è parente di Biragna? Oh, che fanno per me solitario, va. Ma mangia veloce, è impresa, è un bel. A chi è un Biragna? A te usci veloce, eh. No, vabbè, dai, un Biragna, mangia veloce, mi trincia tutto, ossa, cazzo, come rimane nuda. Luca, lo conosci il Biragna? E lui? Dile cosa ti fa il Biragna a Gio Maria, diglielo. Beh, lo conosco il Biragna, pure l'osso si mangia lì. L'ignù, quando attraversano il fiume in Africa, uno e due si ne sbranano in 5 minuti, non rimane manco un osso. In 5 minuti si lo mangiano vivo, l'ignù. E le zebre lo stesso, mi ho visto un documentario. E se con minuti non ve la più la zebra, manco si vedano. Un divisorisce stesso, non è tanto tra quello lo cristiano, C'è tra un cristiano se lo mangiano in 2 minuti. Ma non hai mai visto il documentario. Capita, so! Trincia tutto, una macchinetta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Era masticata lì, questo è il conto di riuscita a masticarla. Curi detti che vanno in barossichetto, non l'hai visto in trattani, uno con l'acqua, tipo la lama di una serra. Tu poni di una lama di serra a confronti e appaggiali. Dente spostato appena con l'altro dente. Allora, mi ha fatto vedere anche perché gli, ho visto quell'altro documentario che li stavano studiando e c'erano scheletri di piranha, no? Una dentiera. Sì, ha visto un coso, un... come si chiama? Un girogironte. Catta, in 5 minuti l'hai divorato tutto quanto. Ma cosa ne ha stato? Io ne ho visto un sacco di documentari dell'Africa, di Liberania. Cazzo, te la zebra, e scomunque non vedo più ognuno ma te. Cazzo, gli animali che attraversava quel fiume si sbranavano, che ci cagattavano e non rumullavano, se lo sbranavano, nulla la cazzia. Eia. Dai, tra dopo, dai. Intanto mi sto guardando un film di guerra che sta finendo, la vivi a vista, ma non vedo altro. E lu? Ci sono i tedeschi e gli americani, adesso perdono i tedeschi. A chi c'è la ricerca di benzina, Luca? E rimane in imbuttiti, rimane in assecco con i carri armati. Beh, diglielo che sono a riserva io. E stanno andando a una postazione, una collina americana che ci sono le pompe di benzina e pure i fusti, convinti giù, a valla rucchi in buru, specialmente al comandante tedesco, li chiudono un paio di dambullani in alto al carro armato, piglia a fuoco e muore arrucchito. Così impara. Non ci comprendo. Che passate, avevano fatto prigionieri un centinaio di americani. L'hanno fatti camminare fino al boschetto. Hanno alzato un tendone di un camion con la mitragliatrice l'hanno tutti morti. Quei miserabili. E chi erano i convinti che la ricavano al campo di concentramento? È sicuro. Uno solo si è riuscito a fuggire, l'altro tutti morti. Se con la legge di Ginevra non lo potevano fare, quando si fanno prigioniero si è prigioniero, invece l'hanno tutti morti, quei bastardi di tedeschi. Chi è? Chi è? Mi stavo attaccando la spina, grazie. La prolunga, dai. E di cosa? Della radio. No, l'ha presa ciabatta che Maria me l'ha attaccata. Ah, la ciabatta, e perché cosa stai usando? Ah, caricami il telefono. Ah, io ce l'ho sotto carica al telefono. Sì, mamma, questo qua ha più 3 anni, la devo cambiare. Non ho capito cosa hai detto. Ho detto che questa batteria ha più di 3 anni, la devo cambiare, dura poco. Mi do tutto il giorno, ma se gioco se ne scende subito. E costa una fesseria su internet. Te la ordini da internet, tramite Amazon, cosa la paghi? 2 cifre. La mia costa, a secondo, 15 anche. 13, dipende. Se guardi su Amazon di lì ne trovi anche offerte. L'altro giorno stavo guardando così il telefono, c'era un sacco di batterie in offerta nuove, anche 8 euro ne ho visto, spedizione gratuita pure, ma mia figlia non se l'ha comprata l'altro. La batteria integrata, capito? Vabbè, ma sempre la paghi sempre di meno di comprarla qua, oppure la reginesi, la bibbia già ce le hanno anche loro. Ti pare su un tipo che piglia le batterie alle reginesi, secondo te? E anche i micro di batterie, i telefonini sono fatti tutti in Cina. Se tu apri, Trento, vuoi scritto male in Cina, cacciati il telefonino vive. Non vuoi scritto male in Italia, male in Cina, male in Giappone, Corea. No, tutti i telefoni sono fatti lì. Ma vabbè, comunque è una batteria dai cinesi e lascia il tempo che trova, capito? Quella originale è un'altra cosa. Guarda che l'originale è sempre dalla Cina, arriva, amico. Non hai capito? Per dirti, questa radio qui, questa è dalla Cina. E cosa diciamo, dai, chissà chi compare di un negozio, no, che in Italia, da chi sa. Lui da chi pure chi ce l'ha comprata dalla Cina l'ha pagato di meno perché ne ha preso un tot di pesci. Tu l'hai abbigliato un tot e l'hai pagato quanto l'ha pagato questo. Sempre da lì vengono queste cose. Tu guarda qualsiasi cosa Made in Cina. Ma dalle cinesi no che non è piglio, grazie. Ma sì, pure Made in Cina, come ti vuoi tu, però qua non è freddo. Oh, eppure io l'altro telefono l'avevo preso dal cinese. Ha funzionato due dì, sono andato e mi ha mandato lì vicino, più su dell'ospedale Rosa. C'è un laboratorio, gliel'ho lasciato lì, se l'ha tenuto una settimana. Quando mi ha chiamato andare a ritirare il telefono, mi ha detto che quello là non c'era niente da fare e allora gliel'hanno mandato nuovo e quello là l'ha rispedito indietro e me ne hanno mandato uno. E grazie a Dio, viaggino, che funziona sempre. Problemi non ne ho, non me ne ha mai dato. Quello l'ho attappavetta io, che il nuovo lo stesso, io me l'avevo comprato un altro, tramite Amazon lo stesso. Amazon. Ehi, Amazon, sempre da lì io compro. Ed è cinese, non mi ha attesto un telefono. Ed è Huawei. Ma problemi non me ne dà, no? Ma non le prendo qua, grazie. Io ho già so un sito italiano, la compro lì, poi se arriva da Cina cosa mi ne affutti? Però sono sicuro che c'è scritto originale e va bene così, capito? Ehi, ma se tu lo guardi, sempre cinese, anche se lo compri in negozio qua in Italia, là. Vero, bombola ci sei. Ma infatti. Anche Mattia. Ma se era uguale, c'è quell'originale, c'è anche quella di Cristina, quella fatta con Cristina, c'è una di quella che vale di Cristina, quella fatta di Cristina. E tutta roba che proviene da quei posti lì, anche quelle che compri qua nei negozi, è sempre roba che acquistano o dove acquisti io dalla Cina, in quei vari negozi, acquistano anche i grossisti italiani in quei negozi, è la stessa merce, non c'ha valuta. Solo come tempi di attesa devi aspettare di più, però arrivare ti arriva, il materiale è uguale, la massa si goccia, solo che come tempi di spedizione devi aspettare di più, massimo 60 giorni. Ma già lo so, grazie, ma comunque io qua non compro niente. Ma io sto aspettando 8 ordini che ho preso un po' di roba a Dresda, a Manca, sempre in Cina, e mi arrivano quasi tutti a maggio, mi arrivano stamattina, mi ho fatto un altro ordine e mi arriva lo stesso a fine maggio. Dunque adesso siamo a metà, da un mese e mezzo ci mette, da neanche prima arriva di due mesi. Ma dal sito cinese bisogna stare attenti, perché come ti può arrivare, come puoi prendere una qualche inculata. Invece quando il negozio italiano è quello che ha tutte le cose a posto, non ti frega, perché è un'altra cosa, dai, lì può andare bene come può andare male. Guarda che io compro con PayPal, se non mi arriva la merce mi rimborsano i soldi, dunque non fai nulla, bombolo. Sino adesso tutto quello che ho acquistato mi è sempre arrivato, in giro di due mesi, un mese e mezzo, un mese e una settimana, anche in un mese certa roba mi è arrivata, sempre dalla Cina. E in caso non mi arriva, mi rimborsano i soldi. Io glielo comunico E loro me lo rispediscono se lo voglio ancora, se lo voglio ancora. E ricarico la carta di nuovo. Nelle persone la ricarico. Ma il problema è che... Come si dice? Il problema è che bisogna stare un po' attenti, No, vabbè, ma comunque anche Luca ha ragione. Se ti serve un pezzo non è che puoi essere agitato 2 mesi, no? Chiami quello là in giro di 3 o 4 giorni ce l'hai a casa. Sì, però lo paghi di più, un sacco di più. A chi devo regalarli di dinaio quando era matto e si cosa? Io prendo la cosa, tanto non è che mi occorre al momento. Se mi occorre una cosa al momento mi la abbiglio qui. Se è per quello. Però se è una cosa che magari no, non è che mi interessi molto, che posso usare, non so, pure fra 2 mesi, me la ordino, capito? E non lo pago sempre di meno. Ma se tu quando arrivi e arrivi, Sì, non penso che sia tanto di manco, no? Ma io compro sempre dalla Cina tramite Amazon e anche su, da su eBay, sempre da fuori anche. E beh, a me mi sembra arrivare. No, Amazon già è tranquillo perché lo controllano loro. Ehi, in più compro con loro io, tramite Amazon. È raro che compro direttamente dal negozio, però anche comprando dai negozi, dalla Cina, senza fare tramite Amazon, ti arriva lo stesso, capito? E se no perdi i clienti, compri, e a loro non li conviene. Anzi, poi ti mandano l'email se è arrivata la cosa, se la integra, tutte queste cose. Capito, ti salutano cordialmente, ti scrivono se ti interessa altre cose, a guardare il suo sito, capito? Insomma, un bel cose. Sì, già lo so già come funziona, l'ho comprato anche noi, ci siamo trovati bene da Amazon. No, così lontano mai. Io già compro, a voglia che compro. Mi adesso mi devo ordinare il barbecue bello tramite Amazon, con le rotelle anche, bello proprio. Che qua costa la barca di soldi più, lì mi viene tutto completo sulle, con il treno e tutto sulle 120-130 euro. Trasporto gratuito, ma però è bello, c'ha tutto, è un bombo, c'ha lo sportello di sopra, il segnatemperatura, le bocchette dell'aria, i ripiani dove appendi i bizzi, la balettina, tutte queste cose qua, il cassetto per la cenere, un sacco di cose. E conviene, a me mi piace quello, e poi è tutto in acciaio, è anche quello, è bello robusto. No, ma cos'è, a gas? A Luca? No, a carbone. Sì, ma bisogna vedere anche il materiale, se è grosso, se è fino, gli avvisi da carbone, però sono anche a gas non i buchi. Io tratto il carbone barrucchino. A gas va giù la piastra che appoggi in andà, le burrette a gas. Ma se uso solo lampadò. Non so quel carbone, capito? Che io ci metto anche un paio di pezzi di tavola, capito? Già lo so, già. Dai, riprendete, Luca! Luca, ci sono le coperte, sì! Vuol dire Magnelli! Ci devi aspettare, bombo! Quando vuoi entrare già siamo qua! Luca, dormito sì. Sta a telefono con mamma. Grazie. Ehi, è a telefono con mamma tua, già ti ho sentito. Antonio, dove? Antonio. Antonio si è assentato, rientra dopo, ha detto. Luca non ha rifugio. Ma sicuro si gli fida. E io tu chiesi la maglia della pasta al forno. Ehi, già me l'ha mandata la foto della pasta al forno. No, io non ne l'ho mandata. E ho fatto i tortellini, ma... Beh, pure la pizza da rinuti, viene a mi dare. Ho capito, no, io a pranzo abbiamo mangiato vabbè, la pasta asciutta, lumacconi, ripieni, le favette fatte in verde, insalata, frutta, meno male pure. E boh. C'è anche io le favette fatte in verde, mi ne sono rimaste in mezzo a 6 camminoli, le ho messe nel forno, saluti, sin a giugare a me li mangio. Sino domani li pongo in frigorifero, già sono buone. Quelle erano fresche, le abbiamo bruciate e le abbiamo messe nel pozzetto, dentro la cucina. E poi c'è fettina impanata, pollo con patate, viene rimasto, viene che mangia. Mi sono rimasti pure un bel piatto di tortellini, a chi la non bene. Ma le favette fresche? Le bavette, la ministra gli mi piace romantici. Capita, a pasta asciutta mi posso il sugo con ragù con il macinato, buona rigi, già ci sono anche quelle. Fuzzi, ministra chi fusa. Ho detto le favette fresche sono. Le favette erano fresche, l'altra settimana che le ho comprate. Sono costato un'ora in buccelli e mettendole dentro le bustine. Poi le ho messe nel pazzetto, quando le voglio ando, mi piglio una bustina di voce. C'ho anche fagioli freschi, i borlotti, quelli lo stesso li avevo sgranati, messi in bustine nel pozzetto. E io poi mi faccio le scorte, quando non è il periodo, chi mi viene la gana mi piglio dal bozzetto. Grazie, ma non fresche come le nostre raccolte proprio al momento e cucinate al momento. Anche così, raccolte e cucinate, ma anche queste mie che ho comprato, le ha raccolte la mattina e a Londra ci sono cubate a 2 villaggi comparate e le abbiamo fatte in romanzano un ghizzo, quel tipo, le ne ho cucinate il giorno che le ho prese. E la rimanenza le ho sbucciate e le ho messe nel pozzetto. Vabbè, comunque le nostre raccolte e cucinate. Anche quelle che ho preso io. E questo tipo di bancali, abita bancali in campagna, roba di campagna sua. Stagiano atti nostri, questo qua di Cristoforo Colombo, Marco. Marco Pittalisi si chiama di cognome. Io capito, no, ma sono buone, belle, fresche. Mi ha fatto anche Marina, dopo ce le mangiamo stanotte. Ah va, grazie. Mi sono andato a farmi una doccia, mi faccio un altro paio di partite, mi assento grazie a dopo. Ce ne abbiamo mangiate anche così, crude, quelle tenere, con il sale, bonariti, belle gustose. A me piacciono un bel. Anche io ne mangio un bel, favette, capita poco sono buoni. Fate anche la salata, aglio, frasemmelo e peperoncino, con l'uso d'arriva, oh yeah! Buone sì, messo il peperoncino, sì. Anche il peperoncino ha messo, buona rete, Con il peperoncino, non te l'ho detto. Ce l'ho a spicchi, piccolini, ce l'ho grande, ce l'ho anche in polvere. Buono, tutto buono. Gli hanno grido. No, già le mangio queste cose. No, non penso senza esagerare, ma già me la mangio romantici. Certo. Meglio un gusto che 100 maranzi. O no? Senza esagerare, rimanendo nella regola, però già le mangio. Non so qui non posso mangiare, ma mi ha detto che gli ha l'attacco di matessi. Che cosa devo mangiare allora? Crepo prima di un tempo. Luca, andate la metti alla corrida, mi ha risato. Luciano. No, non Luciano. Andate la metti da signora che si sta a ballare. Ballo del matto, non mi avevano mai a me. Chi sta 10 marrugio, chi sta 10 cinque, cazzo, che vanno alle feste. Adesso dobbiamo andare a vedere... Cos'è che mai, come si chiama? Mirto? È uno spettacolo, c'è cioè, sabato, di Comici Sardi. Inizia alle 7:30 lo spettacolo. Davvero, e dove? Al teatro del corso. 5 euro si paga. Non è tanto. È sempre lui che sia Luigi lo presenta. Sì. Già l'ho visto già. Sulle risate, ragazzi. Quel giorno lì, te lo ricordo. E che mi ha messo così, via. Io ero in platea, ero giù. Ero su. Infatti mi sono messo col telefono a fare il video e il tipo mi ha detto cosa. Non potevo mettere, sai che cadevo giù. Ho detto, guarda che non sono un bambino. Ah, e me infatti non sono stato lì a fare studi, vabbè. Mi sono usato buonanotte. Comunque c'era un bel di caldo, c'è. Caldo, eri sciumenti. E avanti. Guffetto! Ma che facendo c'è? Dai, infatti che io devo chiudere, devo fare cosa. Ok, se devi chiudere va bene, bombo, ce la risentiamo allora. Al limite dopo se hai tempo rientro, già sono qua io, c'è anche Luca che deve andare a farsi la doccia. Già è accesa la radio, basta chiamare, vai Luca. Sì, siamo qua noi, ancora. Non per molto, che poi mi deve accompagnare a casa a me. Ehi, domani al lavoro va. No, domani vado a farmi l'esenzione del ticket. Ah, e lì devi andare via San Parino. Sì, via Tempio, sì, non è questo però qua. Vai, chissà che in quello sportello c'è sempre un sacco di gente. State a pian terreno, Emmi. Sì, già lo so, giallo. No, io devo andare per le 7:30, però domani il telefono a vedere quando vado. Ah, io glielo la giudico. Ma io lo devo fare ogni anno quello. Una fase di infezione lui devi fare, capito? Cioè che magari entrano i milioni e devi dichiarare, capito? E sennò dopo ti rompono le scatole anche l'infisi. Capito, per forza lo devo fare. Ogni anno è un rompimento di cose già. Di pibliti. E allora, per carità. Avanti, così un appicciolato, che a 7:30 devi fare anche un prisci. Come ti chi? La piccione non la manda niente, roba la macchina. Ma si paga a fare questa cosa, no? Io gli do 10 euro così me lo fa prima, capito? Se poi uno non è iscritto paghi 50 euro mi pare si paga. Ho capito, vabbè. Beh, se non paghi già in mezzo. Se sei iscritto ti fanno le trattenute direttamente dalla pensione, con frigio. Tramite l'Impisi mi fanno una detrazione che va destinata al capo. Beh, ho capito. E sento gratis di non invasi, mica sono macchi. Infatti guarda quanti capi ci sono, è piena sassa. Io lo so, grazie. Vabbè, comunque, che termine a Italia 1? No, mi sto guardando la fine di questo film che avevo già visto. E a quel capini a Isisi. Eia, ma via, come sto? Anche se l'avevo già visto, vabbè, da molto. E a quel capini, va a fare da russi tedeschi, ecco. E brincadinare, ha arrossito il tedesco. Sì. Così impara, pizza esploso, sei giù, mezzo carro armato disintegrato, tutto incendiato, così impara Ghisso, il comandante tedesco, sicuro era. Vai giù, è avvolto dalle fiamme e sta ancora esplodendo. Oh, non vorrei mai subire nulla, disintegrato, il carro armato, tutto a pezzi. E beh, ti grido. Così impara, perché era un miserabile quel comandante lì. Convinto io, a me, a neveri, carro armato, tutti abbandonati a secco, e a danca, tutti i tedeschi a piedi, bugienni. Ah ah. Ah vai, chi si lavia tutti i mucchi? A tutti arrendersi, come ti hanno fatto questi con gli americani, alle prigionieri, là nei mucchi. E lei abbia fatto la massa si cosaetti. E beh. Vai giù, chi tu deve scattiamo sarà fatto, fucili, bombe, che ti va, sta a posto, a coggio, lo sai se ne torna a feotta in Germania. Adesso non era fottia nulla della guerra, era costretto a rimanere lì. Però a me è bello, contento, capita quando arrivi in Germania, a feotta. A Neveri, a quei tempi c'era la parte d'oro con il ferro vecchio, con tutti i cigarri armati, abbandonati i vivi, Luca. E più che ne da uno? Ehi, al ferro vecchio. Ehi, già si lavorano i batteri di là, con tutti quei mesi, quando c'era la guerra, che poi è finita, con tutti quei mesi abbandonati, a voglia di vattina, alle ferriere. Allora mi ricordo la ferriera che c'era a Porto Torres, non abbattava carro a ferro, un treno era, sciogliendo il ferro vecchio. Questo è certo. Quando stavo demolendo lì a Porto Torres, nella Girola, facevo anche 8 viaggi al giorno, demolendo, caricando i carri nella ferriera lì stesso a Porto Torres. Un bel ferro vecchio. Beh. C'era una ditta che aveva fallito, non so se l'hai mai sentita, alla petrolchimica, all'interno della petrolchimica. Ho lavorato anche lì. Fatti a taglieni, carrigheni, con un polpo, cadera, carico un camion, uscivo, pensavo lì alla ferriera e scaricavo. Facevo anche 6-7 viaggi al giorno, ma pezzi grossi mi di ferro. Certo, e loro poi con il polpo lo prendono, lo mettono e lo fondono, no? E fanno di tutto. Certo. Trasferita a Cagliari, allora viaggiava a Cagliari. Se ne è fatto allora? La prima volta 5 anni, la seconda volta 3 anni, perché me ne era andato, poi mi ha convinto e sono durato ad andare, e sono rimasto altri 3 anni. Poi mi sono stufato e me ne sono andato. Lì ero in comune, infatti quando me ne sono andato da Marcello è perché dovevo entrare in comune all'autoparco, autista. Solo non mi piaceva il suo travaglio, aveva un poco d'ingrasso, panzaretta va via, non facevo niente, non mi piaceva guidare, io sono abituato a muovermi, ero abituato a muovermi, a muovermi, non sono a guidare. E me ne era andato anche da lì. Dei macumani, biglietti di macumani da casa, a me non mi piaceva la faccio lui, autista così. E poi ti annui. E poi mi aveva abbigliato un Amazzano, un Banino, prima tappa su 5, ora stagione. Seconda tappa di 10, 14, un Banino con la birra. Ci sono così gente, balia un po' con l'ingrasso. Ha detto no, non è per me il travaglio, andiamo un bel mare. E me ne sono andato. Vabbè, grazie, vuol dire che non è la parte. No, a me mi è sempre piaciuto, sì, guidare, muovermi, alzare, parare, dare un camion, consegnare. Insomma, muovermi anche, mi. No, quindi in questa maniera. Manco morto. È un paranoia mio, sta a noi brutti. Devi solo guidare, che poi mi imparavo a dare una mano a chi si attaccava in bandiera di cassonetto Meridiano Auto, c'è l'autista che devi guidare su. Vabbè, c'è mio cugino adesso, lavora lì. Vabbè, tramite la Gesino, che hanno preso l'appalto lì all'autoparco. Ma a guidare solo non mi è mai piaciuta, a me mi piace, mi è sempre piaciuta allo stesso tempo a lavorare, a muovere, scaricare, caricare, andare, tornare, fare, a guidare solo, perlomeno io non sono stato abituato a muovere, no, a rimanere in posa di ghibi. E a guida su, no, manco per idea. E te credo. È come che io, per esempio, l'ultimo lavoro che ho fatto quando mi dizia di salire su dalla falegnameria a lavorare in fabbrica giù, a dare una mano a quel ragazzo che c'era, e lui ammarata che gli dizia, guardi, se per un giorno, massimo due giorni ci vengo, se non me ne so candente. Una baranuglia in fabbrica, perché fa sempre gli stessi movimenti, sempre la stessa cosa. Grazie, però se vuoi travagliare, lui pochi si utilizza niente, lo so. Tutti hai preso le patenti, allora non te ne pigliavi i patenti, travagliavi gusti dentro, a carrà. No, a me non mi piace, sì, io le patenti me le ho prese per guidare, però allo stesso tempo mi piace muovermi, non solo a posarmi a guidare, capito? Non mi è mai piaciuto rimanere solo a guidare e non fare altro, capito? No, ma manco ma fare idea, no. A me mi piace muovermi e allora, perlomeno io sono stato abituato così a travagliare. Sì. Dai, grazie, adesso mi faccio una partita a cosa e vado a farmi, ci sentiamo dopo. Vai, intanto già ne ho qua da fare, avevamo asciutto tutti bozzate, ce li metto a posto. Vai, chiama dopo, già sono qua, ok. Buona doccia. Ciao, come stia? No. Va giù di bene, chi su cortisone, mi raggi tagliati la che da bassa da bar un porco spino, stanno già crescendo, roba amata. Mi dare con un colpo del rasoio, a chi non mi piace? Che non è assai. Sì, ma quando cominciano a crescere, si rimangono dritti e non mi piacciono. Non rizzo, presentimi là. Sì, più o meno, là. Vabbè, a dopo, ciao. Vabbè, a dopo, ok. Ciao, buona doccia. Ciao, grazie. C'è nessuno, Graziano. Ehi, allora del pipistrelli entra giù, vabbè. Oh, bello, bello. Catta, non si può fare nulla con te gu. Luca è andato a farsi la doccia, mi sembra che se farà dello scarico. Mi basta, a meno che non sia uscito, non mi ricordo. Gian Maria è impegnato e non c'è nessun altro. Solo io e tu, ed è l'ascolto. Cioè, è l'ascolto, è acceso. Poi c'è la bombola, ha dovuto chiudere e non c'è nessun altro. E peggio mai di canisarrato. E io sono binocchi, mi sono capito di internet. Tanto io non ve nessuno. Sì, peggio mai di. Ah, si dice, prima ma chiama a Gian Maria. Attenzione Gian Maria. Gian Maria deve darsi in allegria, deve darsi. O va gente o è in allegria. Ma chi c'ho? Vabbè. Va bene così. Ore! Ah, è fuggito. Di zumbido. E che facendo c'è, Tore? E facendo c'è? Tu facendo stai? Facciamo facendo ciò. Ciao Luca. Ma non eri scendi, non eri sotto la doccia. Adesso mi ha detto che si è separato 30 canari. L'ha fatto e mi sei impigiamato e poi mi è giunto un attacco di capisci a me. Ti sei graziano mi. un attacco di magnati da magneti, Ah, tu non l'hai afferrato, dottore. No, magari, dopo mangiamo, forse. Se me ne dà Maria, me ne dai Maria a mangiare. Eh? Me ne dai? Che cosa? Da mangiare, me ne dai. Tanto non lo sa, vabbè. No, veramente grazie, ma sta come giunto io, mamma mia. Ah, vabbè. Senti, te la mette nei gusti, mi sono guidato. Chiare 7 mesi, se burata è la di Yuki. Ma sei contento, così arrivi bassa, buru. Vabbè, ma dico, è volata la giornata. Sì, volata, oggi è proprio volata, specialmente la zina. Stamani già in un poemia, ma stasera, nonostante io, sono sempre bussato. Sei volato da prima. Tu che ti sei bussato? Tanto potete stare in piedi. Non sempre devi rimanere impusato, no? Seduto per modo di dire, già mi ne sono alzato, andenni, torrenni, fenni, andenni, ed è volato l'orario, capito? Intendi, Giscia, Luca, gli gnocchi sono finiti, però ci sono le patate, e c'è una, due, tre, quattro, cinque sono. Luca! Che stavo parlando con la 25, dici? Interna che ti zicco bipstrelle. Dizi, gli gnocchi sono finiti, però ci sono le patate. E allora? E sono in 5 a dare giù l'insulto, là. Mamma mia, che maialone che sei, però. Ah, che tortone. Questa è misura, femmini. E due di solo femmini. E c'è bionda, nera, mezzo bionda, castagna e mezzo mulatta, va? Un miscuglio. Capito? Ho visto cigioni, ma ho visto ribattati, torri. E poi ne battato, ne vai a buddito, la vedi fare una bella insalata. Ehi, con chi sta vai? Primo, secondo, terzo, quarto e quinto. Luca, non ti ne pensi più. Battato, passa con i due, vado a tosso. E ti fai una bella insalata. Che devo risucchiare vinca l'aspiratore sale degli sviluppali. Catta, boh. Bubu, a cosa siamo? Vabbè, beate loro. Mia, Luca già avrà avanti domani. Sentito, Luca. Oh, dove posso trovare un LED che fa due colori? Mi serve un LED. L'ho scritto lui su eBay, ma non mi dà queste cose rettangolari. Praticamente mi serve questo LED che quando la batteria è scarica è rosso, poi quando finisce di caricare diventa verde. Non lo so, adesso ho due LED, no? No, è uno unico, è rosso, capito. Poi una volta che la batteria è carica diventa verde. A favore! E chi? Allora, non lo trovo. Adesso ci guardo io. Ma niente, vai, la batta sgonfiata ci c'è, Luca. Sì, prego, succede, hai visto, manco qui calaggio, grazie. Ma io lo immaginavo, ma con la cannuccia l'hai tutto un giro di succiata, tutta intorno, ma... Se scacchi vado a rosso, lo vedi? Luca! A cambia così, grazie. 8 ore, dottore, quanto ti arrivo a te? Dottore. Dottore. Eia. Quanto ti arrivo? Guarda un po' questo passaggio. Aspetta, È così, guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre un mattesci, 9 più. Sempre un mattesci. Ma da te lui cambia. Allora, così. vabbè, ma... Poi me si affondò scala. Vabbè, anche tu. Ma comunque non vi credo che dà quel totto di fatto. Vabbè, grazie, andiamo oggi stanotte. Che è rimasta roba di mezzogiorno. Ci sono rimasti tortellini, pollo con le patate, fave, fettine impanate, per mezza pizza, con le cipolle e sta mischiata. Fine che mangia, oh yeah! La fammi, non è che non già sai io fammi, sono già le 7:30 più, però non è che ne abbia molta fame, no? Vedo qua la cicaladoia di rulati, bella zupposa di bagno, cosa sono, biscotti, Luca? No, ci metto la spianata in mezzo. E mangio anche i biscotti, però non ci sono, non c'è né uova né burro, se no quelli baccalizzati mi fanno acidità di stomaco. A casa mangio i biscotti, allora qua la domenica da Marina ho detto la spianata. Capite, mi avevi abbigliato direttamente la barita, se li faccio i treni la gicala di Rudem che mi faccio io. Capita, pari! Un coso, come si chiama, chi si bade di una maneccia, così manna la tazza. Un litro di latte ci sta dentro. Alla fine, sono morto. Per me è come se fosse una medicina, mi capisci? Io sono mangio il latte e allora sto male, mi viene mal di testa, e anche forte. Tu non ci crederai, ma è vero. Già lo so. A che attore se non mangia il latte, vero tu? Così mi fate... così mi fate. Io non posso mangiare il latte. Allora ti fa il tè come me. Allora, il tè con 4 fette biscottate la mattina. Ne ho io 2, massimo, proprio, esagerando 3. Massimo me ne mangio sì. Pensa un poco. No, io più. 2 in genere, ma qualche volta 3, mi. Qualche luna che vera, si la vede la gatta di chi ci brabbineggia lì. Ma lui ci mette, ma non la galli 30 alla cattura. Prendo quelle in confezione, no? Dentro c'è il pacchetto rettangolare. No, io prendo quelle del mulino bianco, sono più buone. Sono belle croccanti e sono più buoni. Prendo quelle lì, prendo io. Me ne mangio 4, 6, che voce. E mi durano un pacco, mi dura 3 dì. Vai tu, intendi, pitbull, azzanna, 2 bambini, attimi di terrore, ricoverati in ospedale. Il pitbull è fuggito al controllo del padrone e si è avventato sui bambini. Hai compreso? Mezzo bucarotto, quando vai non ribono la muserola anche tu gatto. Tutto muscoli, una montagna di muscoli anche tu gatto. Ah, vai a lesce lo gonto via. A me le mani, ne già odone, no che. Se non rodene il padrono, vabbè, va via la muserola. Se non rodene gatta mi si ricordi, si codinando a Romeo. Proprio là! Ragazzo, Catta, è proprio so terribile, io! Cazzo, sta scritto di carta e muscoloso! Una zappa ci vede chiara chiara! Pare i ridici di una bassona! La zampa, mi metti! 1, 2, 3, 4! Le 4 ridici di la mano di un cristiano, bar! Vedo tutti i muscoli, chi ti fa una bozza, è da paura brutta, ma quando vai non la riga con una muserola che invece, avanti a lesce lo conto. Purtroppo pericolosi sono. Quelli sono cani, l'ha detto anche al televisore, di portarlo con quel guinzaglio proprio bello grosso, l'ha fatto vedere pure al televisore. E con la muserola, e devi stare un bel attento, quel guinzaglio c'è un pezzo che te lo infili nel braccio, tipo te lo blocchi nel braccio, e con l'altro pezzo lo mantieni dove c'è l'anello, là. Chi si sono morti? Purtroppo, chi si sono cani, devi avere un'assicurazione per quello lì, A Monza è successo, mi oggi. A Monza, roba la macchina qua. Capita, uno, due euro mesi mi peso sempre di chi si gana. Devi avere un'assicurazione per quel cane lì, se c'è quel cane devi avere una museruola. E allora, ma questa è senza museruola, mi dà la gatta da rubare e lì c'è fuggito dalla mano al padrone. Perché il cane ha fatto vedere al televisore, ci vogliono questi guinzagli che sono speciali, non sono guinzagli normali, e più la museruola li ha fatti vedere al televisore. La serie dei cani ha fatto vedere. E chi possiede questi cani dove devono prendere questo tipo di guinzaglio e questo tipo di museruola a fatto quindi per legge. Luciano, buonasera. Già Luciano, capo, senti qua questa piccola chiamata che ti chiamo, capo. Attento Luciano, capo. Luciano, mi ascolti questa piccola chiamata che ti chiamo, capo. Grazie. L'ho sentito, ma non entra. Ciao Luciano, buonasera, ben sentita. Avanti, se vuoi entrare. Sparito, riprenditela a tu. Ma beh, del giornale buco. Oh, Lu, trovato. Attento, Luciano, se ascolti questa piccola chiamata che ti chiamo. Gab. Non entra, Luciano. Ma è Luciano Cimbrana? Non lo so se è la Cimbrana, Luca, guarda, te dico, rispondi. Sì, che da cuzinenne, cosa vuoi di più? Cosa è cuzinenne? Ma che cosa è cuzinenne? LED, rosso che diventa anche verde. Senti più che Fusaro e le cose su da Gosu, come ti si chiama? E d'altro, poi a ciappa, gli sono in chivi. E mus due giorni, Ma ho capito la funzione. Sono fuori il circuito, quando la batteria carica diventa verde, non lo so, come funziona questo LED? Non lo so, non ho mai visto. Io ne ho già sempre due. Sempre due ce ne sono da me. Uno verde e uno rouge. Vedi, per esempio, io quando in trasmissione diventa rosso, no? Quando andate voi in trasmissione diventa verde, in ricezione. Invece da me ce ne sono due, ce ne sono. Non so che funzione abbia, come fa a diventare così, Perché io gliel'ho messo questo qua, ma è rosso, solo rosso. No, è doppio coso, ce l'ho anche io, ce l'ho. Doppio coso, verde e rosso diventa. E sono due cose di LED, ma sì, sono difficili da trovare, a meno che non c'è un apparato che ce le abbia, che non serve più. Vedo un casino. Così ho bene così. Perché allora questo LED è di un tassellatore a batteria. Siccome lo stavo caricando, là, gli ho cambiato questo LED, però rimane sempre rosso. Invece quello che c'era prima era rosso, proprio rosso, Quando la batteria è carica diventa verde. A doppio coso sono, a doppia luce. Solo che dici, è difficile trovarli. Ma che non c'è più a che trabano vecchio, a che cosa, Che cosa vecchia? A Pomponio chiedi, magari ce l'ha. Pomponio, ci sei? Non c'è Pomponio. Non chiami al telefono, non ce l'hai. Fai la chiamata e glielo chiedi. Sì, adesso vediamo, anche io qualcosa c'ho da di televisore però. Famone! Luca, ma cosa te manchendi la voce te manchendi? Sì, cara, me lo che sta associato Graziano, non so. Senti che bella chissà. La vuoi fusa, Cosa hai detto? Che l'ho sentito, vabbè! Stavo dicendo, attore, che mi manca la voce, che sono quelle caramelle che ti hai succhiato tu. Ma proprio oggi qua me ne ho mangiato caramella, una frizzante al limone è una lamenta al calquitus, quelle forti, è un pezzo di cioccolato di quello fondente, un quadrato, da. Boh, tu ti vuoi male proprio, grazia, ti vuoi male. E beh, niente lui, vero? È una pasta. Oh, lui ha visto la radio, io la schiaccio e diventa rosso, ok? Quando vanno in trasmissione gli altri diventa verde. Ehi, no, non le ha trovate quelle delle... Scusa, come fa la funzione a farlo diventare verde? Che tramite la batteria o no? Come fa? Beh, è tutto dalla scheda, no? Il LED è comunque due colori. Luca, come mai ieri notte questi pareti che ho messo? Certe volte non accendeva, forse non hanno preso bene il sole, boh? Se non ieri era nuvoloso, anche i miei, capito? Ma oggi stanno funzionando alla grande, è tutta la diffura. No, anche i miei sono ancora puri sul marmo della finestra, c'è ancora il sole. Dopo ne rientro. E beh, riprendi tu. Aspetta che sto guardando queste alghe, che un domani dovremmo mangiarle. Ehi, già sono una di già mangiarle quelle alghe, già lo so, già l'ho già visto. Beh, mi sa che adesso chiudo, alle 8 meno un quarto. Ciao Tore, ciao Luca Flipper, ciao che l'ascolto, ce la risentiamo alla prossima, rilancio a te Tore. Aspetto il finale e me ne vado. Ciao! Sì, ciao, grazie, stammi bene. Piano andendo però, Anda bene, ci sentiamo domani, se tutto andrà bene. Ciao, guarda. Ciao, buonasera, mi raccomando, mangia poco, E lascia in pace Paoletta, ciao! Ehi! Luca! Lu! Ciao, grazie, ciao domani. Beh, tu non c'hai niente da poterlo staccare da qualche cosa, visto che c'è pieno di insomma, di rari. C'ho un carica batterie, però mi pare che sono a due di LED, dicevi? Questo ne ha due, un verde e uno rosso, quando è carica, ho capito cosa stai dicendo tu. Se li accoppio non cambia niente. Oh, lui me l'ha detto che diventava verde, poi non lo so, boh, si spegneva. Non lo so lui, boh. Ecco, lui su sì, se la bilia luce. Prima non funzionava, perché il caricabatterie suo originale costa 60 euro, 65 euro spedito. Mettili quello della caricabatteria del Baofeng. Cosa? Quello della caricabatteria del Baofeng, mettilo. Che cosa? Il LED. Nel sacco del suo Baofeng va dalla non ti serve ancora di capo. A parte che i caricabatterie sono chiusi non li hanno visti, sono chiusi a... Lo mette con la colla, boh. Allora ho busto domandato. Se no, volta, non andiamo via, andava in ordine. Sì, dovrebbe, sì, il voltaggio è quello intanto. Prima ti chiami a domani gli suga. Sto guardando ma non va giù nulla. Non c'ho niente. Ah vabbè, quei circuitini mica c'hanno i LED. Cioè c'hanno micro LED, c'hanno proprio lì di ti vivo la lente ingrandimento proprio grandito. Ma attenzione, arriva lui. Ha visto il caricabatterie, c'ha quelle specie di cose, di. Si chiama di puntati, dai, come volevi chiamare. Lì cosa faccio? Metto i puntali del test e sale, si misura, avvuglia. E che non accendeva il LED. Ma guarda, ci sono molti caricabatterie che rimane sempre rosso il LED, anche se la batteria è carica. Lo so, però. Prima tu che diventava... come fa a sapere che la batteria è carica, scusa? Non ci vorrebbe magari un voltmetro attaccato. Cade vuoto, stai un po' vecchiotto, usato, là. Se è un caricabatterie, non funziona, mistero. Invece loro l'attacco, c'era anche l'avvento, la vedi tu, per affreddare il circuitino. È più strano. Comunque veramente ho fatto le prove io, perché l'ho misurato, no? Con il testo, tutto uguale. E mi dava la tensione, però non la caricava la batteria. Quando gli ho messo il LED, allora sì che è partito. Perché quando inserisco la batteria si accende il LED. Però non diventa verde. L'unico è lasciarlo 3 ore almeno caricare e poi provarlo. Capito? Tanto lui lo sa la durata, no? Quanto li faceva. No, ti ho sentito che mi è uscita l'auricolare, grazie. Ho detto, lo lasci 3 ore almeno caricando e poi lo usi, vedi un po' se sta caricando bene. O lì provi il voltaggio, capito? Vabbè, adesso vediamo un po'. Domani, tanto poi, mi sa che passava oggi a prenderselo. E ecco, io il lavaggio per la giovà, tu il PDVC non potevo fare. Si arrangia e... se lo usa, comunque carica, perché prima era lento, era proprio musso, infatti stavo scaricando la batteria. Quando io, come ho detto stamattina, l'ho messa tipo 30 secondi, era un po' più potente, ma è forte. Solo che vabbè non era carica, però era più potente, vuol dire che stava caricando. Sì, e almeno 3 ore lo devi lasciare quando è scarico del tutto. Infatti, adesso vediamo, adesso si arrangia. Ah, l'attacco come il tuo, come si chiama l'attacco? Le punte? Non lo so, ci sono quelli a slitta. Come ha trappato il tuo? È a slitta il mio, sì. E c'ha le lamelle poi dentro che stringono i contatti. No, quello che avevo usato per impastare, quello lì. Non so come c'ha la come si chiamano le punte. È attacco a slitta si chiama lui, quel modello lì. Che vanno in casa in automatico, giusto? Sì, infatti si chiama attacco a slitta, perché li sfili, capito? Non hanno un incastro dall'alto verso il basso. Ma tu lo chiamavi in un'altra maniera? Mario... Luca! Avendo... Luciano, senti qua questa piccola chiamata che ti chiamo. Ebbene, Lucariello. Senti questa piccola chiamata che ti chiamo. Ma mi ascolti bene, sta? Sì, ti è arrivata una bomba. Questo utilizzando quel portatilino. Come mi ascolti? A fondo scala, sì. Mi c'è anche Tore. C'è Luca, non so se ti ascolta. Lo ascolti a Franco, lui. Sì, a Puglia. Ciao, Franco. Dai, sto cercando quei LED, dai, riprendete. Rimanimi da Franco, fra, ce l'hai un LED che diventa, che fa due colori? No, negativo, no, non c'ho più niente, mi c'ho questo portatile, buh. Se ce l'ha fatto tutto io, oramai. No, anche uno, ne uno però è bianco, ne uno bianco e uno verde, però non fa diverso colore, capito? Non c'ha lo scambiatore di colore. Ecco, se usa di luce che se ne ha fatto. Ti serviva? Per qualche baracchino. No, oh, di un coso, di un alimentatore, di un caricabatterie, di un tassellatore della DeWalt. Ho capito. No, non è Apple. Comunque va arriva un bel forte, fondo scala qua. Se ti ricordo quel portatile, il GT3, vabbè io sono una donna alta, quindi non ne ho problemi. Forte e chiasso. Non so se ti ha ascoltato, ma penso di sì. Tore, lo senti a Franco? Fattore è parito. E beh, fra, lavorando stai, sì? No, adesso sono fermo. Casino, tu te la vaglio, Hai attenuto i bacchimu in Alaska? Aiù. Non c'è nulla, fra, non c'è niente. Dici che vuoi lavaggio, no? Quindi è, Qua non c'è niente. Se vuoi il lavoro devi andare su in Germania, devi salire. Qua è... fino a che per avvamo e bu a Sassari, a Sassari non c'è niente, niente di niente. Già me ne sono avvisato già. Poi l'ho trovata quella scheda lì, L'hai trovata? E dove? Tramite un amico che me l'ha dato, l'ho sistemata, è a posto adesso. Fortuna ci vado a le schede, non è facile. Sulle belle già le trovo, ma te li fate in baga sa che sali. Ma poi il discorso non è che li trovi, magari la piazza non funziona pure, capito? Anche, Maria, ti prendi. Quindi, la piazza di sotto e poi non funziona, quindi tanto vale. Un casino, e tu non stai lavorando, fermo. Lavoricchiando, là, lavoricchiando fra. Asso, domani spedisco questa radio e faccio mettere la scheda accolta dentro, fra. Ma cosa di ne vai? Cosa di ne vai, Luca? Io c'ho sempre il Midland, l'ala 68, va bene, lo aggiungo sempre così, Funziona benissimo con l'apparecchio. Quello ce l'hai tu. E mi direi vanno bene. Fra questo pure il BP Colt, la scheda accolta, a elicottero. E mi sentirai gabo gabo. Adesso ritroviamo a pochi soldi questi baracchini. Cos'è? Ricordino a capo, va, o lui. Con tanto euro devo fare un apparecchio, va, 80-90 euro, dai. Guarda di ne vai, scheda accolta, va, non ne ha più nessuno, va, però non c'è più. Non c'è più niente di questa cosa qua, capito? Io sono male, tumulto, va. E comunque al 10 già sta entrando gente. Entra Claudio, entra Marco, Condor, poi entra Walter, poi entra Tino, Gianni. Qualcuno già entra. Sì, vabbè. Ma non è più come prima, prima c'era più divertimento. Adesso non c'è più niente. Avevo buttato l'antenna pure perché il vento me l'aveva buttata giù, me l'aveva piegata, poi sono salito su, mi sono incazzato, ho pigliato la mano e l'ho con tutto in terra, boh, finito, ma fa culo. Ehi, ehi, ho capito, vabbè, da fra, va, mi andiamo a mangiare, e poi Maria mi accompagna a casa, già ti intendimmo, ciao fra, ciao. Yeah. Ciao, magari un po' del caso, ciao. C'è perché è... Oh, Lu. Tocca a dire. Piano, mi raccomando, non favore in gota, non ti perdo. Sentiamo domani, io domani mattina devo andare di là a farmi quel foglio, dai. Poi ci aggiorniamo. Ehi, ok. Davvero? Ciao, Gio Maria, amico. Entra due, ciao, Gio Maria. Ehi, ciao. C'è tre. Ma chi è? California? Sì, Franco, sì. Vabbè, Califo, si è attaccato. Sì, vabbè, ma chiudete stati. Aspetta, Luca, c'è un testa di papassino che si chiede furbo, che sta vendendo delle soldatrici piccoline, tipo quella che ho fatto vedere da Brickoman, che se non erro se l'ha comprata Gio Maria. E sta vendendo 95 euro. Adesso sto chiedendo per i pagamenti, questo qua mio mi chiede la PayPal, ma la PostPay. Ma che quello su Facebook? E allora? Questo è di Fornia, e tu ci chiedi di VIP, ti fai la ricarica e ti fottono i soldi. Ma una stanza, 99 euro. Ma uno di Sassari la sta vendendo, 99 euro, 300 ampere. 300 ampere, sì. Ma è a Sassari però. No, perché tu già sei mai di Fornia. Di Fornia? Ma questo Lorenzo Maura. Non lo so come si chiama, aspetta. Vabbè, dai, usarlo. Ciao Lu, ciao Gio Maria. Ciao anche a Franco, ciao.